Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Questa mattina vi consiglio di allontanare, nel caso che ci fossero, le orecchie innocenti dall'apparecchio radiofonico, perché questa mattina, approfittando del fatto che ho la voce più bassa di mezzo tono, come spesso mi accade, parlerò di sesso selvaggio. Parlare di sesso selvaggio il lunedì mattina, mi rendo conto, può essere un'operazione un po' pesantuccia, anche perché fuori piove, perché la giornata è tediosa, perché tutto porterebbe a pensare a universi antitetici rispetto al sesso selvaggio. Ma mentre voi passeggiate per le vostre strade infangate e piene di pioggia, mentre voi bestemmiate al volante la vostra automobile perché non hanno pulito le strade, quindi state a mollo fino al parafango, mentre voi non avete ancora varcato l'uscio di casa, guardate sonnecchiando fuori dalla finestra, dite chi me lo fa fare di alzarmi, beh, qualcuno sta consumando sesso selvaggio. Non sono esseri umani, ma sono animali. Questa mattina parleremo della lussuria animale. La lussuria animale è naturalmente un termine di paragone spessissimo usato anche nei nostri raffronti umanoidi rispetto alla possibilità, alla capacità, alla compulsività nell'amore. Dirò alcune parole che hanno un'accezione negativa, dispregiativa, anzi vengono considerati parolacce, ma in realtà sono semplicemente i nomi comuni che si attribuiscono agli animali. Quell'uomo è un porco, tu sei un maiale. Già basterebbe questo, il porco e il maiale sono animali, ma il porco e il maiale sono caricati in una sorta di infima lussura, per cui l'uomo che si comporta in maniera irregolare, abnorme, compulsiva nella sessualità è un porco e un maiale. Anche l'infedele è un porco e un maiale, perché l'animale adulto per eccellenza è forse il maiale, questo ci chiederemo. Anche quando si dice una donna troia, brutta parola troia, ma la troia, se voi foste nati e vissuti in campagna, è la scrofa, è la femmina del porco, viene chiamata normalmente troia. Da quello viene fuori, forse per contaminazioni omeriche e forse per reminiscenze classiche, anche la donna di particolare calorosa lussuria viene chiamata troia. Ma ci sono sempre di mezzo i poveri animali, cosa c'entrano? Anche la donna sciocca viene chiamata oca. E cosa c'entra l'oca, poverina? Cosa ha fatto di male l'oca? Perché l'oca è stupida? Perché è stupida perché è sventata. La donna oca è una donna che si concede con sventatezza. La donna troia è una donna che si concede con compulsività. Andando avanti, il mandrillo. Quell'uomo è un mandrillo. Perché è un mandrillo? Mandrillo perché, come i mandrilli, pare che lo facciano in maniera molto, molto spesso, molto, molto veloce, con un gran numero di copule. Ma se in realtà la stessa attività viene fatta da un coniglio, quell'uomo è un coniglio, beh, se deve vergognare, un coniglio vuol dire un uomo che ha una durata di rapporto sessuale inferiore alla barriera accettabile dei 15 secondi. L'uomo sotto i 15 secondi è un coniglio, poveraccio. E c'è sempre di mezzo il povero animale che ha una sua particolare perversione sessuale. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. La donna calorosa, oltre a essere troia, è anche una non mi confondete scrivendomi zoccola sul manifesto. Arriverò anche alla zoccola, è chiaro. Mi sembra che scoprono l'America in tonti e rocchetti, mi scrivono un cartello. Arriviamo dopo, arriviamo ai mustelidi. Adesso in questo momento stiamo parlando degli animali da cortile. Dicevo, è una concezione un po' antica, un po' ottocentesca, mi fa venire in mente la lupa di Verga, ma la lupa è la donna praticamente allupata, quindi assatanata, quindi il lupo ha questa sorta di infernale lussuria. E anche la cagna in calore, oggi non si dice più, si scrive solo nei romanzi di appendice, e colei si comportò come cagna in calore, ma poi la cagna in calore non fa niente di male, sono i cani che ululano, si arrabattano, la cagna sta lì, sta ferma, non fa niente, la cagna in calore è totalmente passiva, sta lì ed emana il frutto del suo calore attraverso feromoni che vanno nell'aria, tutti i cani stanno lì con la lingua di fuori, anche i gatti in calore, una gatta in calore. Andando avanti al suggerimento che mi stavano impropriamente dando i miei colleghi, passiamo ai poveri topolini. Ecco, perché la femmina il cui disprezzo va espresso per la sua attività sessuale deve essere una zoccola. Vi risulta che la zoccola, che altro non è che la femmina del sorcio, del topone da fogna, abbia una particolare lussuria? È il topo che in realtà si congiunge in maniera compulsiva perché deve riempire il mondo con la sua progenie. Quindi cosa colpa ha la povera zoccola? Eppure la donna è zoccola. La pantegana invisibile, abbiamo usato questo termine per definire l'indefinibile. La pantegana invisibile, colei che sfugge, colei che si sottrae, colei che c'è e non c'è. Anche qui c'è un'accezione negativa. Ecco perché ce l'abbiamo tanto con i poveri animali? Perché gli animali in realtà sono i capostipiti delle nostre lussure. Sono i predecessori di ogni nostra squisitezza dal punto di vista dell'arte amatoria che pensiamo di attribuire alla nostra cultura umana. Noi siamo uomini, siamo perfezionati, siamo poeti, siamo raffinati, quindi ci possiamo inventare la mucchiata triplice, la pentuplice penetrazione, tutte queste cose. Gli animali già lo fanno da milioni di anni, già lo fanno prima di noi. Non abbiamo nulla da imparare dagli animali, perché gli animali già sanno tutto, e nulla noi dobbiamo insegnare agli animali, perché la sanno molto più lunga di quanto la sappiamo noi. Qui notiamo l'accoppiamento di due scarabei. Uno attaccato al busto dell'altro, sempre alla femmina. Benvenuti alla 29esima puntata di Super Quark. Ecco a voi l'accoppiamento degli animali. Adesso vedremo nel dettaglio quali sono le posizioni del Kama Sutra preferite dal nostro piccolo mondo animale. Ecco a seguire un esempio di minetta mucchesca. Un pinguino si appoggia al suo beccuccio alla mucca, che ovviamente racconta all'amica dei prestigi sessuali del pinguino, e l'amica dice: ma di cosa ti lamenti? Che cosa vorresti di più dalla vita? E la mucca: un tucano. YouTube ormai è diventato il luogo di espressione della fantasmagoria immaginifica di generazioni cresciute, allevate, il cui immaginario è contaminato al 100% dalla televisione, che poi riversano sulla loro particolare, personale emittente televisiva, che è il computer di casa, la loro macchinetta digitale, il mondo visto attraverso il filtro della televisione. Una delle trasmissioni più imitate nelle parodie che fanno i ragazzi sfaccendati, ma sfaccendati in senso positivo, almeno creano qualcosa, creano parodia dell'esistente, parodia dell'intoccabile. La televisione di Super Quark, di Piero Angela, è nel Sancta Sanctorum dei desideri probi degli italiani. Cosa guardi in televisione? Guardo Super Quark di Piero Angela, e tutti sembrano: ah, che bello, che bravo, non guarda le veline, non guarda i secchioni, non guarda il Grande Fratello, quella sì che è televisione. E si cominciano a snocciolare le 3 o 4 figure ieratiche della televisione che giustificano l'esistenza di questo deplorevole mezzo, almeno nell'occhio dei ben pensanti. Beh, Piero Angela e Super Quark, nella reale concreta lettura scanzonata e spassionata e priva di filtri pudibondi dei ragazzi, è semplicemente una grande ingroppata di leoni, elefanti, giraffe, rinoceronti, perché di quello si parla. La leonessa sta stesa nella savana, lì ferma, pudibonda e lussuriosa allo stesso tempo, arriva il leone, 30 secondi e ha fatto e compie l'atto. Lo stesso per la tigre, lo stesso per l'elefante, lo stesso per il rinoceronte, per il facocero, per la pulce d'acqua, tutti insomma fanno questo. Beh, di questo infatti si legge e si tramanda su YouTube. Beh, cosa vi domando questa mattina? 800 24 00 24, anche voi avete in mente un animale? Anche voi fate riferimento a una specie animale quando compite il più sacro indissolubile gesto che gratifica voi un altro essere umano? Sentiamo ad esempio Antonio. Buongiorno Nicoletti. Che bestia è lei, Antonio? Spenga la radio però. Sono una bestia, mi reputo una bestia normale con i miei limiti, perché sono limitato. Però deve spegnere la radio, se no la sento con un alone sinistro. Così. Ecco, voglio dire che alla fine non bisogna meravigliarsi di quanto è bestia l'uomo nel bene o nel male. La ragione... chi si meraviglia? Siamo qui per no, definire... ma la ragione è gli accostamenti agli animali non vanno fatti, perché gli animali... per istinto hanno un loro modo di di far di comunicare. Noi invece la ragione è padrona di ogni perversione, per cui fare sesso animalesco, selvaggio o soft, che cosa? Fa parte dell'uomo, della natura dell'uomo. Ma lei cosa intende per sesso animalesco? Ma io non lo so, perché non l'ha detto, io... lo specifici. Lei quando dice oggi ho fatto l'amore come una bestia. È come quello che magari ha bisogno di picchiare la propria donna perché si siede. Ma nessun animale picchia le donne, nessun animale picchia appunto, le donne. Appunto, è per quello. E non è animalesco quello. Quello è umano. È perversione umana. Che cosa per dire? Immagini un animale che si sente vicino nel momento di massimo scatenamento, senza menar nessuno. Ma sì, ma io voglio, il concetto è che alla ma fosse fine, anche il cobra, qualunque cosa, basta che dici un animale, per capire. Il concetto che voglio far capire è che alla fine l'uomo non ha bisogno di nessun accostamento con l'animale, perché l'animale fondamentalmente per istinto fa il suo sesso, invece l'uomo, nella ragione dell'uomo c'è qualsiasi perversione, perché l'uomo usa anche la ragione per spaziare in ogni perversione. Perversione è un termine brutto, perché già dà un'accezione moralista. Diciamo che l'uomo ha delle fantasie che fanno parte della sua cultura, se Dio vuole, se no sarebbe una cosa tristissima, nessuno lo farebbe più se non ci fosse la fantasia che ci stimola. Io il problema vero e proprio di tutto questo è che non, noi facciamo cerchiamo sempre di accostare qualsiasi questo un porco, no, questo è fuori da ogni... Vabbè, lei non è nessun animale, perfetto, abbiamo capito. Pasquale? Sì. Lei è una bestia invece? Sì, io sono una bestia. Ecco, finalmente, quale bestia? L'uomo, io sono l'uomo, l'uomo. Non riesco a paragonarmi a nessun'altra... E cosa fa di animalesco in quanto uomo nei suoi accoppiamenti? A me piace molto parliamo di bestia di uomo, piace molto la donna, la femmina, tra virgolette. Vabbè. È diffusa come cosa, non è che sia poi così raro. Solo che niente, io vengo anche usato, cioè vengo anche passato di mano in mano da un giro di donne, così. Lei è un po' il complesso di Cassiodoro, comunque va bene, se questo le risulta mi fa piacere. Sì, mi fa molto piacere questa cosa qui, senza fare, penso, del male a nessuno e senza buttare giù nessun tipo di animale, tra virgolette. Beh, cosa fanno di lei le donne che la fa sentire così vicino agli animali? La usano come il gallo nel pollaio, che ce n'è solo uno. Come un gallo nel pollaio, sì. E sono tutte galline intorno. E sono, sì. Sì, ma gli altri galli cosa fanno nel frattempo? Solo per capire, perché noi poi... Gli altri galli saranno, penso, dei caponi, saranno dei galli castrati. Ah, detto, il complesso di Cassiodoro, lei pensa di avercelo soltanto lei? E... No, assolutamente, io penso di averlo come tanti, ma non di... aspetti, non di averlo, penso di saperlo usare con testa come tanti altri. Va bene, ognuno, diciamo, queste sono le illusioni che ci permettono di vivere sereni e tranquilli fino all'inoltrata vecchiaia. La transessualità o ermafroditismo successivo è presente in natura ogni qualvolta il successo riproduttivo sia legato alla taglia dell'individuo o alla sua età. Se dimensioni o età maggiori consentono a una femmina di produrre più uova e nella medesima specie un maschio in grado di produrre spermi sufficienti a fecondare tutte le uova di una femmina sin dalla giovane età, allora per questa specie sarà molto più conveniente in termini riproduttivi nascere maschi e morire femmine. Questo pare sia proprio in nuce il vero problema. Noi maschi, sia che apparteniamo alla stirpe dei facoceri o alla stirpe degli urbani civilizzati, abbiamo un po' la necessità della dispersione. Noi seminiamo, le femmine invece devono selezionare. Questo mi sembra che sia il principio che anima un po' la ricerca di Claudia Bordese. Claudia Bordese, buongiorno. Buongiorno. L'ho fatta ascoltare in silenzio fino adesso, volevo che avesse contezza di quello che è il punto di vista del nostro pubblico. Claudia Bordese, ricordo, è una biologa, abbiamo già avuto ospite la nostra trasmissione parlando del parassitismo animale, autrice di Sesso selvaggio, Quando ad amare è la natura, in Star Libri. Allora, questo rapporto fra nostre pulsioni e collazioni, contrapposizioni con il genere animale che dà tanto fastidio a qualche nostro ascoltatore, è realmente concretamente appoggiato su dati oggettivi? Gli animali sono veramente dei maestri di lussuria rispetto a quello che facciamo noi miseramente? Credo che lussuria forse non è il termine più corretto. Sicuramente è giustissimo quello che ha fatto notare prima, ovvero che noi non ci siamo assolutamente inventati nulla. La natura ci precede in tutti i comportamenti sessuali più bizzarri e stravaganti da milioni di anni, questo è indubbio. Dicevo, non è forse corretto utilizzare il termine lussuria, perché la grossa differenza è lì. Noi abbiamo un po' dimenticato quello che è la vera ricchezza, il benessere ricercato in natura, che è la riproduzione mirata proprio a propagare i geni alla generazione successiva, e quindi il benessere della prole. Noi ci dilettiamo in comportamenti sessuali stravaganti molto spesso per rincorrere un benessere materiale, una ricchezza fatta di potere, soldi, posizione, e non più quella che è la vera ricchezza naturale. Beh, anche perché ci dà gusto qualche volta, no? Beh, certo, noi abbiamo aggiunto una serie di impalcature etiche, morali, culturali e anche del raziocinio alla fine, per cui anziché rincorrere unicamente la prole, rincorriamo a volte soltanto un benessere materiale, cioè il piacere fisico. Cioè abbiamo trasformato quello che è una legge della natura, quella di riprodursi, in una gratificazione che può avere chiunque, anche in una baracca isolata e misera, anche in una situazione di indigenza. In realtà quel basilare divertimento che non costa nulla è permesso a tutti. Certo, a quel punto ecco che per noi diventano trasgressioni, mentre in natura no, perché noi trasgrediamo una legge naturale che teoricamente è quella, tutto questo ventaglio di possibilità mirate a riprodursi, mentre noi lo miriamo unicamente al piacere. Non è che siamo inventati la legge proprio per il gusto di trasgredirla, sennò non ci sarebbe gusto. Probabilmente anche così. Senta, lei ha fatto degli esempi, noi abbiamo mandato una scheda presa dal suo libro sulla transessualità. Vorrei proprio entrare nell'aspetto pratico, senza teorizzare. Analizziamo quelle che oggi vengono considerate le più inarrivabili vette della trasgressione. La transessualità, bisogna dire la trans, non il trans, non soffrendono i trans, se lo tagliano, se non se lo tagliano, gli uomini vanno soltanto con i transessuali, è la nuova scoperta. Ma negli animali la transessualità è già esisteva prima ancora che la scoprissimo noi umani? Sicuramente è diffusa, non è diffusissima, ed è presente ovviamente in organismi, in specie animali relativamente semplici, poco complesse, perché in natura la transessualità vuol dire, come lo intendiamo noi, un cambio completo di sesso, ma che non si limita al cambio dei genitali esterni, che è quello che subisce una persona, un umano che decide di passare da un sesso all'altro. Lì cambiano anche i genitali interni, ovvero sia un transessuale animale diventa totalmente da maschio a femmina o da femmina a maschio. Chi è il più grande trans del mondo animale? Il più grande trans del mondo animale? I più grandi trans del mondo animale sono sicuramente i pesci. Moltissime specie marine, non solo, anche di acqua dolce, proprio per massimizzare il loro successo riproduttivo, cambiano nascendo maschi e morendo femmine o viceversa, a seconda di quella che è la condizione ottimale. Anche un pesce molto conosciuto come il pesce pagliaccio, Nemo, nella fantasia di tutti dopo il successo del film della Disney, questo piccolo pesciolino molto colorato che vive all'interno degli anemoni e vive in gruppi familiari, in genere guidati da un maschio di dimensioni maggiori che ha una sua compagna, e poi ci sono dei maschi più piccoli. Infatti Nemo, il pesciolino arancione, c'ha un papà, una mamma, si innamora pure di una pescia azzurra, mi sembra di ricordare, quindi non viene svelata questa sua potenziale transessuale. Sarebbe stata un'informazione un po' forte, però quello che succede in natura è che se il maschio che domina, diciamo, il gruppo nell'anemone muore perché viene predato, cacciato, eccetera, diventa femmina. La sua femmina nell'arco di pochi giorni si trasforma in maschio e in breve, veramente in pochissimi giorni, cioè gli spunta fuori e diventa un uomo. Altre femmine. Scusi? No, dicevo, gli spunta fuori e diventa uomo, maschio. Diventa maschio, esattamente, non gli spunta fuori nulla in realtà, per il semplice fatto che non hanno un organo copulatore. Ah beh, allora però è più facile, è in grado che di produrre spermi. È facilissimo da quel punto di vista. 800 24 00 24, stiamo entrando nel terrificante, spaventoso e torbido mondo della sessualità bestiale con la dottoressa Claudia Bordese, che ci illustrerà dopo l'informazione della borsa ancora altre fantastiche perversioni del mondo animale. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. I bonobo vivono in comunità di diverse decine di individui. Le tensioni che naturalmente sorgono per spartirsi il cibo, appropriarsi dello spazio migliore, corteggiare una femmina ricettiva, pare siano sovente affrontate e appianate con offerte sessuali. L'innato bisogno di coesistenza pacifica porta i bonobo a scambiare effusioni con qualsiasi altro partner, senza badare a sesso, età o gerarchia sociale. L'utilizzo del sesso per la funzione di conciliazione non è limitato alle coppie di adulti di sesso opposto, ma si assiste con frequenza ad atteggiamenti omosessuali, sia tra maschi sia tra femmine. Stiamo parlando del sesso selvaggio, stiamo parlando degli animali che in realtà ci insegnano quello che possiamo, dobbiamo, abbiamo vaghezza di fare quando ci accoppiamo. Sono moltissime le telefonate, sono moltissime le curiosità, molti vorrebbero sapere perché si dice trombare come un riccio, pare che i ricci abbiano questa smodata lussuria, altri vogliono sapere su un insetto che pare che arrivi a consumare 200 rapporti sessuali in un giorno. Tutti vorrebbero sapere come si chiama per poi paragonarsi nelle loro spacconate da bar a quell'insetto. Io sono come la pulce d'acqua, 200 volte al giorno. Un altro ascoltatore mi descrive con minuzia l'accoppiamento delle tartarughe che l'ho osservato. La tartaruga femmina scappa, il maschio le corre dietro, le addenta le gambe, la blocca, li salta sopra e poi le tartarughe sono mute. Quando si accoppiano pare che facciano una sorta di lamento la tartaruga innamorata. A tutte queste domande può risponderci Claudia Bordese, che è una biologa, autrice di Sesso Selvaggio, Quando ad amare è la natura, in Star Libri. Dottoressa Bordese, ha sentito queste domande, ha qualche possibilità di darci una risposta? Di sicuro non so rispondere ad alcune di queste domande. Il riccio è così è realmente così lussurioso il riccio? Con tutti quegli aculei come fa? Ma sicuramente nel periodo degli amori, come molti altri piccoli mammiferi e come molti altri animali, approfitta del brevissimo periodo che hanno a disposizione, dettato un po' dalla temperatura ambientale, un po' dalle condizioni del cibo a disposizione e un po' dalla disponibilità sessuale della femmina, per sfruttare ogni singolo minuto. E quindi ecco perché automaticamente nell'arco della stessa giornata possono avvenire moltissimi accoppiamenti. Infatti, come i gatti si trovano spiaccicati nelle stagioni degli amori sulle strade, anche i ricci in campagna spessissimo si trovano spiaccicati sulla strada. È una sorta di rischiosa lussuria quella che devono affrontare attraversando una strada per i loro amori compulsivi e momentanei, brevissimi. Sovente sì, perché il tempo a loro disposizione, il tempo diciamo nell'anno per riprodursi, a volte è così limitato, in alcuni casi si parla di pochi giorni, di massimo una settimana, per cui bisogna giocarsi il tutto per tutto, non si può perdere l'occasione. Ma allora perché il bianconiglio ha sempre fretta e corre, quando i conigli in realtà possono farlo quanto vogliono e hanno tutto il tempo a disposizione? Perché lì è fantasia, è come Nemo che non ci faceva sapere di essere un transessuale. Ecco, abbiamo citato questa specie di primati che ormai vengono citati ogni volta che si vuole dare giustificazione o si vuole paragonare un comportamento sessuale con qualcosa che già fanno gli animali. L'omosessualità negli animali è diffusa o soltanto questa scimmia così avanzata riesce ad accoppiarsi in maniera indifferente con maschio o femmine? L'omosessualità negli animali è molto diffusa, nel senso che diverse centinaia di specie la praticano. La cosa importante da sottolineare è però nella stragrande maggioranza dei casi l'omosessualità in natura è presente come calmante sociale o come campo pratica nel caso dei giovani che in pratica si esercitano su come dovranno poi agire sulle femmine, oppure appunto come adiuvante nel mantenere la stabilità del gruppo, perché nella quasi totalità degli animali nel momento in cui gli si presenta un partner dell'altro sesso la scelta è assolutamente obbligata. Come avveniva un po' nel mondo greco, che c'era questa sorta di istruzione sessuale sui ragazzi che poi quando si sposavano abbandonavano gli amanti maschi e prendevano quelle femmine. Comunque questo per dire che quando si parla di vizio contro natura, in realtà la natura contempla anche quel tipo di possibilità. Sentiamo Giuditta. Giuditta. Buongiorno, io ho paura di essere un po' fuori tema perché non avevo capito che era soltanto sul sesso degli animali. Invece cosa aveva capito lei? Avevo capito che fosse sugli animali, su quello che animale uno voleva essere. Al sesso con gli animali? No? No, che animale uno avrebbe voluto essere? Lo dica, perché è la stessa cosa. Se lei nel momento del suo fulgido e furioso accoppiamento pensa di essere un animale, ha raggiunto è la risposta alla nostra domanda. Che animale pensa di essere? Non è questo? No, proprio, guardi, nel senso degli animali ho delle visioni molto poco belle. Ad esempio? Io mi ricordo due tortore e la tortora femmina era distrutta, piena di sangue, perché la tortora maschio la picchiava moltissimo mentre faceva... Ah, quindi diciamo applicano il sadomasochismo violento le tortore quando si accoppiano? Sì, sì, ma anche tanti altri animali. Ad esempio? Io ho una gatta che è poverina, purché è tutta morsicata nel collo quando si accoppia con i gatti sono terribili. No, io pensavo proprio c'è il lametting fra i gatti, si graffiano facendo uscire il sangue. Sì, ma sono terribili veramente. Io non so, ci saranno anche degli animali che lo fanno in maniera gentile e amorosa. No, sentiamo subito la dottoressa Bordese, perché questa ascoltatrice che ha delle candide tortorelle, dei teneri micioni, poi li vede scambiarsi effusioni sadomaso. Cosa succede? In questo caso, sia per le tortore che per i gatti, bisognerebbe cercare di staccare un po' il discorso, perché parliamo comunque di animali che sicuramente sono osservati in cattività e quindi un po' lontani da quello che è il loro ambiente naturale. In natura, in realtà, tolto il caso di certi episodi di forte violenza, come nell'accoppiamento degli squali o in alcuni casi degli orangutani. Perché gli squali cosa fanno? Gli squali cosa fanno? E gli squali hanno un accoppiamento estremamente violento, che è prossimo quasi a uno stupro, più maschi si gettano su una femmina, in alcuni casi la femmina ne esce veramente malconcia, però è anche un animale molto primitivo e quindi... C'è una gang bang fatta da squali, terribile. È terribile, è decisamente terribile, però in natura sono molto frequenti, no, non sono molto frequenti, però si verificano. Poi lo squalo mi sembra che abbia anche delle particolarità singolari, non lo so adesso, non voglio entrare nei particolari, ma è terribile. Lo squalo? Beh, lo squalo sì, la prima particolarità, diciamo la più notevole, visto il discorso che stiamo facendo, è il fatto di avere in pratica due peni. Sì, e questo insomma... È bifido nel pisello, quindi già in sé è spaventoso. Esattamente, però parlando di botte, in natura ci sono diversi casi in cui in realtà è la femmina che picchia il maschio e in genere sempre nei momenti in cui il maschio, finito il suo lavoro, tenta di andarsene alla ricerca di altre femmine, mentre ovviamente, diciamo così, la prima moglie lo riempie di botte per impedirgli di andare a folleggiare in giro. Antonio. Pronto? Eccomi. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Lei cosa si sente? Un gorilla di montagna. Guardi, adesso quando le dirà la dottoressa Bordese in realtà le caratteristiche del gorilla, non sarà così fiero, eh? Perché sente, no, un gorilla di montagna? Ma io ho comprato un disco, un CD, no? L'ho visto e ho visto cosa fa, per esempio, la femmina del gorilla dominante. Nel senso che si accoppia con chiaramente il gorilla dominante, però di notte andava dallo sfidante, dal gorilla più giovane sfidante che seguiva il gruppo, no? E però ho notato che con il gorilla dominante si accoppiava in una maniera classica, così, anche noiosa, ma con lo sfidante invece ci dava dentro in maniera... Ma lei quale dei due gorilla è? Il marito cornuto? Gorilla di montagna. Ma quale dei due? Quello che aspetta dietro e se la fa di notte in maniera fantasiosa o quello dominante che... No, io mi sento quell'altro, cioè mi immedesimo, mio marito così, mi immedesimo, cioè immedesimandomi in quell'altro... Cioè, mi eccito di brutto. Insomma. Vabbè, lei sogna i gorilla. Vabbè, ognuno. Dottoressa Bordesa, questo ascoltatore che si sente un gorilla, non mi pare che il gorilla abbia poi delle caratteristiche così esaltanti. Il gorilla, intanto posso capire la sua visione di maschio. Il gorilla è comunque un animale poliginico, ovvero sia c'è un maschio con un suo piccolo harem di femmine. King Kong è però esempio. Che si verificano questi episodi, cioè di femmine che nottetempo vanno a cercarsi sollazzo altrove. Un piccolo dettaglio che però può interessare il radioascoltatore è che alle grandi dimensioni diciamo esteriori del gorilla non corrisponde una varie dimensione dell'organo. Lo sapevo, tutti dicono mi sento un gorilla, ma il gorilla in realtà c'era proprio piccolissimo. Esattamente. Sì, questo glielo devo dire all'ascoltatore che tutte le notti si infiamma pensandosi un gorilla. Lei pensi che ha un piticello appena al posto di quello che lei immagina, una sorta di Empire State Building, perché ha guardato King Kong. No, non c'entra assolutamente niente. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. In alcuni pesci delle barriere coralline e caraibiche, le femmine, anziché andarsi a cercare il maschio con il territorio e le risorse alimentari migliori, attendono di scambiare la loro virtù con un buon bocconcino offerto dal maschio. Solo se il dono sarà ritenuto sufficiente, sarà concesso al maschio di accoppiarsi. Questo comportamento, che nell'ottica umana richiama da vicino il mestiere più antico del mondo, è diffuso tra gli insetti, i ragni e gli scorpioni, con un tariffario degno di una casa chiusa. Nella mosca a scorpione, se la preda offerta è grande e grossa, l'accoppiamento potrà durare anche mezz'ora. Il tempo necessario alla femmina per divorare il dono e il maschio avrà la garanzia di riuscire a fecondare un elevato numero di uova. Claudia Bordese, biologa autrice di Sesso Selvaggio, quindi esistono le escort anche tra gli animali? Esistono le escort, ma non sono escort, perché come dicevamo prima, il benessere, l'obiettivo finale, non è un bene materiale, potere, posizione, ricchezza. Non è andare a fare la presentatrice in televisione, ecco. Come? Diciamo, il punto di arrivo di ogni escort è andare a condurre un programma in televisione oggi. Io non dico nulla. In natura l'obiettivo, intanto c'è un vero e proprio baratto, un'opportunità per entrambi, che è molto importante, perché l'obiettivo finale è generare una prola sana, feconda e che possa trasmettere i propri geni alla posterità in pratica. Quindi questo fine superiore nell'equilibrio naturale giustifica anche che se lo si faccia in cambio di piccoli regali, piccoli doni. Certo, ma è un atteggiamento in fondo di entrambi. Il maschio si esibisce in tante specie animali, mostra i pettorali, mostra il piumaggio bello colorato, dice guarda come sono bello e forte, oppure guarda che nido bello e accogliente sono in grado di prepararti, ho quindi degli ottimi geni, se tu sei quindi disponibile ad accoppiarti con me, i nostri figli saranno ancora più forti. Anche perché sarebbe esagerato, ma cosa pensiamo, che gli animali lo facciano per amore? Cioè questa cosa dell'amore ce la siamo inventata noi. Paola, buongiorno. Ecco, buongiorno. Senta, io volevo intervenire su questo argomento, su come lo state trattando soprattutto, perché ogni tanto la seguo e vedo che lei ha molto la tendenza a applicare categorie animali agli uomini. Beh, due puntate animali. In sei anni però, guardi. Come? Sono due puntate in sei anni, ho parlato del maiale una settimana fa. No, ma è proprio una teoria, lei cerca sempre di disumanizzare l'uomo, sia quando parla delle sue, per esempio, appendici tecnologiche, quasi che protesi emozionali. Come ha fatto l'uomo non vada bene, cioè va sempre un po' trovata una novità o qualcosa di diverso. Comunque, scusi, no, no, non la voglio, adesso la faccio parlare, dico. Il mio concetto è che l'uomo è tale perché si evolve, perché si reinventa continuamente. Ecco, su questo non sono assolutamente d'accordo, nel senso che l'uomo secondo me è sempre uguale perché è fatto di un'anima, di un corpo, di scelta, di volontà, e volerlo animalizzare o tecnologizzare è un rischio pazzesco, perché quando noi sentiamo nella cronaca nera tutti gli omicidi, gli assassini, gli stupri che sono da una pulsione sessuale non controllata, dove non c'è più l'aspetto umanizzante della volontà, ma c'è quello della bestialità. Chi ammazza, certo, chi ammazza non lo fa mica ammazzano. Perché allora io dico che fare programmi dove ridendo e scherzando si continua a dire che l'uomo in fondo è una bestia non fa bene alle persone, scusi, non è un messaggio positivo. Ma secondo me, quello no, positivo è dire c'è una responsabilità, c'è una volontà, c'è una coscienza che distingue l'uomo da tutto il resto. Ma su questo siamo perfettamente d'accordo, ma se noi non capiamo, non conosciamo e non ponderiamo il nostro lato animale, non riusciremo mai a controllarlo. Soffocarlo e fingere che non ci sia, secondo me, è come tenere una bestia in gabbia. Il secondo che un attimo uno dimentica il guinzaglio, questo esce fuori Tazzan. Noi siamo uomini proprio perché controlliamo la bestia che è noi, ma la bestia c'è, se no non uccideremmo, non ammazzeremmo, non saremmo spietati, non saremmo capaci di gesti che nemmeno gli animali compiono. È inutile nascondere e metterci una coperta sopra la bestia o metterla in uno sgabuzzino. Io su questo ho sono perfettamente d'accordo con lei che la differenza è forte nell'essere umano, ma l'essere umano è tale proprio perché è capace di rimettersi in gioco continuamente, non considerarsi qualcosa di immutabile, e si ricostruisce, si inventa, si adatta, si mette in discussione. Non so se lei sia d'accordo con questo. È stato troppo forte, lo so, mi rendo conto. Andrea? Sì, sì. Dica il suo punto di vista. Sì. Beh, guardi, su questo argomento vorrei solamente aggiungere che magari ciò che ci distingue dall'animale è la possibilità che noi abbiamo di essere un po' autoironici. Sì, ma infatti l'ironia mi sembra che sia lo strumento più difficile da usare. Stamattina era una puntata scherzosa, divertente, con una seria scienziata che scherzando comunque ci ricorda continuamente che noi siamo sempre quell'essere fantastico in bilico tra l'abisso e l'estasi, capito? E quindi è giusto sapere c'è anche l'abisso sotto. Lei che vada al punto, che animale vuole essere? Allora, guardi, io sarò rapidissimo, mi sento un bel coniglietto. Un coniglio, lo so, i tempi sono sempre duri da mantenere, ma nel senso nella barriera di 10 secondi che non riesce a mantenere? No, beh, un po' di più. 15? 25? 20. 20 secondi, benissimo. Duccio Panzani, veterinario, buongiorno. Buongiorno. Ci serviva un veterinario, un esperto, uno che tocca con mano ogni giorno quello che noi stiamo semplicemente teorizzando. Il settore è appunto la riproduzione. Soprattutto equina e asinina. Sì, ma anche bovina, insomma, più che altro cavallo e asino. Comunque c'è un discorso che forse non è stato trattato, è stato trattato parzialmente, cioè l'intervento dell'uomo nel comportamento della riproduzione degli animali. È come la signora delle tortore dei gatti. Scusa? Come la signora con le tortore e con i gatti, stanno a casa sua. Quello è già diverso, perché per esempio i carnivori sono più difficili da condizionare, ma per intendersi, faccio l'esempio del bovino, no? Cioè, è noto che praticamente le femmine di bovino si montino uno sopra l'altra quando sono in estro. Si scaldano, sì. Praticamente la femmina in estro viene montata dalle femmine che entreranno in estro nei giorni successivi. Praticamente è stato interpretato in due maniere questa cosa, per intenderti. La prima interpretazione è che questo sia funzionale, ma è un po' difficile dirlo, al fatto che il toro riconosca la femmina in estro. Però in realtà sembra che ciò derivi più che altro dal meccanismo dell'allevamento che veniva fatto fin dall'inizio, cioè, o comunque nel periodo del medievale, in cui i contadini poveracci avevano queste vacche che utilizzavano sia per la carne che per il latte che per il lavoro, e il toro invece l'aveva il vassallo, il signore. Si pagava la monta taurina, si pagava. Si pagava, appunto. Quindi il discorso è questo, che è stata selezionata la femmina che si mostrava in estro, perché l'estro della bovina dura poco, quindi se perdi il momento... perdi il fatto di farla rimanere gravida. Facciamo conto che la gravidanza è importante per la lattazione, insomma tutta una serie di fattori che insomma sono state selezionate e si sono riprodotte le femmine che mostravano al momento in cui c'era l'estro senza avere il toro a disposizione. E quindi le femmine, capendo questo, si procuravano fra di loro l'estro? No, non se lo procuravano, non è che se lo procuravano tra di loro, cioè l'estro viene per conto loro, se viene da solo ogni 21 giorni va in estro, ma il discorso è questo, è che non si riusciva a individuarlo perché mancava il maschio. Di solito le femmine animali mostrano l'estro in presenza del maschio. Ah, ecco, capito, è una sorta di necessità umana di cogliere gli animali anche in quel momento fatidico, personale, intimo, in cui provano il desiderio, hanno il bisogno di accoppiarsi, quindi di perpetrare la specie. Grazie Duccio Panzani, veterinario, per questo importante chiarimento dell'intervento umano anche nel mondo squisitamente misterioso della sessualità animale. Grazie a Claudia Borghese, grazie a tutti gli ascoltatori che questa mattina si sono sentiti animali insieme a noi. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.